Stanno parlando, ragazzi. Non ho capito, Robè, che hanno messo la portante. Cos'hai detto? C'hai delle cose? Non ho capito. Va bene, se sento qualcosa ti avviso. Ascolta, i tablet da quanti puri ci sono? Non ho capito. Va bene. Va bene, se sento qualcosa ti avviso. E così vediamo un po'. Va bene. Con chi stavi parlando però non ho capito, io non ho sentito nessuno, buongiorno a tutti. Ah, ecco, la Sassa dice la sua Luca, va bene. Ciao allora Angelino, buongiorno, ben ascoltato. Va bene, e come sono andate queste prove, bene o male? Allora già va bene, vai, vai a te, ottimo per la truppa. Oh, Claudio. Beh, sta parlando Alghero, spostati all'otto. Aspetta, vabbè, mi sposto un attimo. Parlate, parlate. E quindi già si piega. Si piega ma non si spezza. È come me. Io mi piego ma non mi spezzo. Mi sono dimenticato di salutare Roberto, lo sento proprio piccolo, piccolo, piccolo, però riesco a capire. Riesco a sentirlo, dai. Comunque, buongiorno Roberto, ben sentito. Vabbè, ti ha salutato Gianni da Sassa, l'hai sentito? Contraccambiato, va bene. Anche lui ti accoppia basso basso già, ma è un problema di antenna solo, perché la posizione per Alghero ce l'hai tu buona. Vabbè, anche oggi magari a livello climatico non è favorevole come i giorni scorsi, dai. Bene, ci sta. Che ore sono? Mezzogiorno meno 20. E il DAC l'hai rimesso a cuccia di nuovo, Claudio? Sì, è in Quadrix, sempre all'allerta, basta che commuto e non ci sono problemi. Solo che io purtroppo devo usare anche questa, perché se non la uso questa è un casino, capito? Queste sono radio, bisogna usare, non ti puoi permettere di mantenerle ferme tanto tempo, Se non l'avrei spenta avrei usato il DAC Vita Natural Durante, perché è una bella radio, una bellissima ricezione, però posso commutare anche, fare andare il DAC. Vediamo, anzi adesso commuto, vediamo se mi ascolta Roberto D'Alghero. Aspetta, beh, che commuto una radio americana vintage che è 80 centimetri lunga, alta 60, il baracchino più grande al mondo. Aspetta che lo commuto, se mi senti bene. Sì, poco da fare, c'è, guarda. Qua c'è l'MC50 DAC, guarda, questo è un DAC Mark 10, un DAC, un baracchino di ultima, di tantissimi anni fa, che però non ce n'è per nessuno, sembra un amplificatore lineare di quelli da 5 kW. Ma la radio non te l'ho mandata a te, non te l'ho mandata a te la radio, questo modulante. Se te la mando ti spaventi, Angeli. Ti spaventi proprio, è pazzesca, è una cosa grandissima, enorme, ma bella. Tu immagini, c'ha quattro strumenti, c'ha il rosmetro, come tu c'hai quello esterno, lui ce l'ha sul display, tutto analogico, rosmetro, la tensione della valvola, perché è valvolare, c'ha il ricettore valvolare, il resto è tutto transistorizzato, quindi ti segna la potenza della valvola in uscita con l'ingresso della nudica, puoi fare una e l'altra. C'ha il modulometro e uno smitter, che io sono mezzo cieco, che lo vedi da 10 metri di distanza. Adesso ti mando la foto, Angeli. Va bene, va bene. Ci ho abbinato l'MC50 con l'adattatore, quindi microfono normale da base, però della Kenwood, trio Kenwood MC50. Il coso è a manettone, il micchè è a manetta. Aspetti, mando la foto. Ehi, aia, mi sto rollando una sigaretta. Eccomi, eccomi qua, mi stavo rollando una sigaretta. Sì, diciamo che il varco verso di te è un po' più aperto rispetto all'Alghero centrale, perché c'ho la collina di Monte Oro proprio davanti, capito? Però verso la tua zona, anche verso un po' parte della Lura, sono un po' più aperto, dai, e quindi sicuramente mi ricevi per quello. Guarda Giri, guardatela, te l'ho mandata, che poi mi devo allontanare, dai, che c'ho roba da fare a casa. E tieni conto che in Sardegna non ce n'è di queste radio, siamo in tre in Sardegna ad averla, tre persone solo, e sono tutte e tre a Sassi. Ma così, se la vedi dal vivo, le cromature fanno paura, cioè i pomelli in alluminio cromato, non sono di plastica, è tutta in, hai visto, le maniglie sono tutte in cromate, il frontale è tutto cromato, c'ha di tutto e di più, tutto, c'ha Fat, Love, il trasmettitore che lo puoi tenere in stand by, attenzione, c'ha 240 canali, non è così, I pomelloni che tu vedi dove c'è volume, accensione, squelch, ref gain, pomellone centrale dei canali, il clarifier, perché non c'ha l'FM, c'ha la M, l'USB e l'LSB e il mic gain. Due di quelli entrano e escono per i canali, capito? Quindi tenendolo in dentro a 40 canali normali, in fuori a 40 canali sopra, l'altro pomello tenendolo in dentro a 40 canali normali, in fuori a 40 canali sotto, capito? Poi c'è la calibrazione, vedi, se tu lo apri, c'è la calibrazione SWR, pomellone iniziale ti fa la calibrazione, c'è lo strumento attaccato come tu ce l'hai esterno, lui ce l'ha lì, capito? È tutto regolabile, tutto, qualsiasi cosa te la segna sul display, sotto, tutto. Pomellino in gomma, no, quello è cromato nero, i due pomelli in alto sono cromati neri, è tutto cromato, non c'è niente di plastica. No, vabbè, ma mica è pesante, ci vuole pannella a mantenerla, è un bel pesante, è un bel, è 220 mio, 220 col trasformatore a 110, non è così, no? È un bel pesante, è un bel pesante, io quando la sposto te ne scende le braccia, infatti ho lasciato le maniglie, perché preferisco prenderla dalle maniglie, capito? Vabbè, comunque già funziona, dai. Gianni, riprendi tu, io vi chiedo permesso di QRX, vi ascolto volentieri, proprio con questa radio, e mi allontano in cucina, ho delle cosettine da preparare in cucina, ok? Comunque vi ascolto volentieri, dai. Il cambio per te, Gianni. Vabbè, sì sì, anche io ho visto la radio, Angelo, magnifica, proprio bella, stile vintage, estetica molto semplice e molto bella, proprio perché è semplice, ci assomiglia molto ai vecchi impianti hi-fi degli anni 70, 80, dai, primi anni 80, bello, cose belle, dai, niente a che vedere con lo... a livello estetico con le robe attuali, dai. Ci siamo dimenticati di Roberto che è parcheggiato. Roberto, avanti. Faceva una linea così con l'alluminio spazzolato, erano bellissimi, Sansui, sono un sacco di marche, io ero appassionatissimo di Alta Fedeltà, figurati, compravo i... c'era un mensile, un attimo, scusami, ricevuto, dai, ricambio e buona carica anche a te, casomai ci si aggiorna presto, dai, sì, adesso sono riuscito a sentirti appena un po' meglio, dai, comunque buon proseguimento alle prossimine, come si dice, cosa stavo dicendo, che molto tempo fa compravo una rivista, si chiamava Alta Fedeltà, faceva parte dello stesso gruppo editoriale di motociclismo, automobilismo, insomma era la stessa casa editrice, praticamente facevano le prove, le comparazioni degli apparati hi-fi, no? Giradischi, piastre, amplificatori, casse, insomma non me lo facevo scappare ogni mese, ero sempre pronto lì a... E mi ricordo c'erano delle cose bellissime da vedere. Kappa, sì. sì, roba bellissima, cioè amplificatori pazzeschi, piastre, equalizzatori, giradischi, vabbè, c'era di tutto, no, veramente come si dice, tanta roba bella, che poi insomma quando ti capitava di girare per i negozi che li vedevi esposti in vetrina ti ciccavano gli occhi. Qua a casa adesso per tutta una serie di motivi l'hi-fi l'ho smantellato, però vabbè, visto che ho a che fare con la musica, insomma, se no poi quanto facile ho i locali a fare DJ set, insomma, c'ho tutta la varia strumentazione, c'ho due console. C'è una copia di Technics completamente customizzata, li ho recuperati, uno l'ho recuperato in una cantina completamente messo male, pieno di sabbia, muffa e quant'altro, e l'altro più o meno era un po' messo meglio, ma non tantissimo, e li ho completamente smontati, li ho completamente restaurati e li ho fatti verde Kawasaki, guardi, devi solo vedere. Motivi ho smantellato tutto, mi è rimasta una vecchia piastra Pioneer con i tastoni, i tasti grandi, completamente meccanica, sempre in alluminio spazzolato, poi vabbè l'amplificatore l'ho regalato, c'avevo un vecchio Lenco che completamente smontato, adesso non mi ricordo che fine ha fatto, le casse lo stesso le ho regalate, insomma dovrei ripristinarlo, dai. Poi non so se hai visto, girando su eBay c'è un sacco di quella roba lì che insomma se la fanno pagare abbastanza, tutta quella roba degli anni 70-80, soprattutto quelli in alluminio, dai, poi i plasticoni valgono un po' meno, però tutta quella roba vintage 70-80 se la fanno pagare parecchio. Sì. Adesso che me l'hai fatto ricordare, l'ho avuto anch'io, anche quello l'ho regalato, un sinto amplificatore della Sansui, sempre in alluminio, un manopolone con il volano interno, che praticamente una volta che lo lanciavi partiva dai 108, arrivava agli 88, praticamente aveva il volano interno che gli, praticamente una volta che gli davi la spinta, cazzo, era scorrevolissimo. Anche sì, quello lì aveva lo stesso i finali bruciati, ero riuscito praticamente a metterli a posto, l'ho tenuto un po' di tempo, poi l'aveva visto un amico, se ne è innamorato e insomma villaggio regalato, e poi sai, poi lui aveva fatto dei piaceri in passato, quindi mi sembrava anche giusto contraccambiare, dai. E quindi praticamente in sostanza adesso non mi è rimasto più niente. Vabbè, c'ho tutta la roba, insomma, per le serate, io sono autosufficiente, c'ho casse, c'ho due sub anche, uno c'è l'amplificatore che devo ancora ritirare, sono in caso di serate, sono abbastanza autosufficiente, dai. Però dico, hi-fi qua a casa non ho, per il momento ne ho. Se devo ascoltare musica mi limito a sentirla attraverso le cassettine del PC, il piccolo sistema audio col sub e le cassettine. Non è la stessa cosa chiaramente, però bisogna adeguarsi, dai. Precedentemente era già stato riparato questo sub, è un sub attivo praticamente, c'ha un cono da 15 se non sbaglio, no, non è da 18, da 15, adesso mi sfugge la marca, comunque dietro praticamente è un sub attivo con l'amplificatore integrato, può funzionare sia mono che stereo, praticamente ha sia gli ingressi che le uscite bilanciate, con la possibilità praticamente di poter filtrare, di poter pilotare la cassa da mettere sopra già col taglio della frequenza. Ed era già stato riparato quel sub lì. Tempo fa io l'avevo noleggiato ad un amico, praticamente aveva preso con degli amici suoi una settimana una casa per le vacanze a Capotesta. E praticamente me l'ha tornato che era difettava, io gli ho dato funzionante, insomma, dopo che ho scoperto questa cosa qua gliel'ho fatto presente, però poi vabbè, alla fine non sono riuscito a concludere nulla. Ce l'ho fermo in un laboratorio qua a Sassari cerco, insomma, quanto prima spero di rimetterla a posto, dai. Vabbè, adesso per tutta una serie di motivi non si può quella roba lì non la posso utilizzare, e niente, vediamo un po' in prossimo futuro di riuscire a ripristinarlo, così abbiamo la coppia, e niente, così è tutto pronto per un eventuale utilizzo. Poi c'ho due, non so se le conosci, ho due vecchie GBL, le Eon da 15, sono due casse della GBL amplificate tondeggianti, non so se le hai mai viste, hanno una forma molto insolita, degli anni 90. sono fatte sia per essere usate come cassa da diffusione classica, e poi si possono praticamente anche appoggiare a terra con tutte le varie angolazioni, si possono usare anche come casse monitor, dai. No, praticamente hanno la caratteristica che il frontale è praticamente tutto presso fuso in alluminio. Ha il sistema bus reflex, però ha le uscite davanti. Il cestello del woofer è integrato nel frontale della cassa, non è come i woofer classici che hanno il loro cestello dove va infilata la membrana. Praticamente queste casse da JBL hanno il fusto del woofer integrato nel frontale. Infatti mi si era crepato un woofer un paio di anni fa. Ho cercato un ricambio della JBL, non ti dico quanto costava il cono con la bobina. Gira che ti gira, ho fatto un giro su eBay, ho trovato una coppia delle stesse casse però passive, di cui una lo stesso aveva il woofer completamente rotto, però l'altra era buonissima, quindi le ho comprate al volo e praticamente le ho cannibalizzate per mettere a posto le mie, dai. Ti devo dire che nonostante siano casse degli anni, primi anni 90, stiamo parlando di 500 watt RMS l'una, cioè, che poi spinte a livelli suonano parecchio. Praticamente si era lesionato, c'era praticamente la crepa è partita da dove c'era la sospensione rigida, però poi è iniziata a salire verso il centro del cono, capito? E questa crepa piano piano ha iniziato ad espandersi, è diventata lunga 3-4 cm, dopodiché ho cercato praticamente di fargli di rattopparla in qualche maniera nella parte posteriore, ho usato della colla vinilica con della carta, da dietro ho cercato di tamponare, ha retto per un po', però poi una sera dopo i festeggiamenti di un matrimonio, praticamente l'indomani ho visto che chiaramente la carta non ha tenuto e ha continuato ad aprirsi la crepa, e da lì ho dovuto cercare un ricambio, dai, già, poi alla fine l'ho trovato, già sono riuscito a metterla a posto, dai. Ho provato a fare quell'intervento lì e niente, poi ho recuperato quest'altra coppia di casse e sono riuscito a cannibalizzare quello che mi serviva, e ora non sono fisicamente qua a casa. Le avevo fatte nere opache, perché sai, poi quel tipo di plastica lì con l'andare del tempo si era anche logorata, e ho preferito farle nere. Il vantaggio è che sai, come è stata appena in vernice, gli dà una carteggiata veloce, la maschera in nero opaco e si rimette tutto a posto. Ti ripeto, nonostante siano delle casse degli anni 90, continuano a dire la loro, dai. classici, belli grandi, c'è la sezione dentro che praticamente l'amplificatore è collegato al frontale in alluminio, quindi la parte in alluminio del frontale funziona anche da dissipatore. Poi ha il crossover separato con delle protezioni, ha praticamente dei me l'aveva spiegato il tecnico, adesso non mi viene il nome, comunque questo mio amico le stava buttando perché praticamente erano tutte e due praticamente piene di falsi contatti, c'erano saldature fredde, alcuni piccoli componenti da ripristinare, gli ho detto no, piuttosto che buttarle me ne prendo io, me le sono sistemate e tuttora sono in mio possesso. Il trasformatore è toroidale, è enorme. Cazzo, se ti fidi pesa metà del peso, non dico metà, il 30% del peso della cassa. Il trasformatore toroidale è enorme, cazzo. Sono in un materiale plastico, non so nello specifico dirti che tipo di materiale sia, comunque sono abbastanza maneggevoli e anche, dai, anche leggere da trasportare. Sono molto molto pesanti, e ti ripeto, cioè perché poi la cassa in sé, la parte praticamente, tutto l'involucro della cassa è in questo materiale plastico, e poi ha il frontale praticamente in alluminio presso fuso, dove c'è installato tutto, e niente, ha il logo dietro stampato con la scritta GBL, praticamente il culo praticamente è fatto a forma triangolare in modo che la cassa si possa reclinare sul pavimento, dai. E niente, dai. Poi vabbè, il GBL è una garanzia, non ti devo dire nulla. Anche io, anche sono mezzogiorno e 10. Bene, Mela, dai, grazie della chiacchierata, ci aggiorniamo quanto prima, Angelo. Bene, Mela, dai, buona carica anche a te, buon proseguimento, casomai ci si aggiorna alla prossima, ok? Bye bye.